parlati. Alcuni si lavano 13 volte al giorno, ma non riescono in nessun modo a sentirsi puliti. Alcuni profumano solo il proprio inferno. Sono tutti qui intorno, sono tutti impuniti. E tutti là, là. Alla fine il nemico e non dovevano mica cercare lontano. Alcuni si chiedono di che cosa vivranno, alcuni si chiedono come, alcuni lo sanno. Alcuni sputano tutte le proprie sentenze senza nemmeno averle masticate. Alcuni sputano tutte le proprie sentenze perché sono un fegato molto, ma molto, ma molto, ma molto ingrossato. E tutti là.